Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alla seconda puntata delle feste di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Buon 2017 per cominciare a tutti i nostri ascoltatori. Giovani Talenti. Proseguono anche oggi le nostre puntate speciali in attesa della ripresa del programma il prossimo sabato 14 gennaio. A proposito, proprio sabato vedrà la luce il primo grande restyling di Giovani Talenti. Importanti novità attendono i nostri ascoltatori. La prima riguarda le storie che vi racconteremo in onda. Non parleremo più solo ed esclusivamente di giovani espatriati, che resteranno comunque, non vi preoccupate, il cuore del nostro programma, ma vi racconteremo anche e più approfonditamente gli italiani che tornano nella penisola e i giovani che emigrano per studiare con programmi formativi ad hoc. E se questo non vi basta, beh, sentite quest'altra novità. Ogni due settimane appuntamento dedicato con l'agenzia per l'impiego Eures, che farà il punto sulle opportunità di lavoro nel vecchio continente. Questo per aiutarvi in modo ancora più concreto a cogliere opportunità all'estero. Infine, come sempre, proseguiranno le nostre puntate speciali e la nostra rubrica mensile sull'Estremo Oriente. Un anno ricco di novità, davvero ricco di novità per gli ascoltatori di Giovani Talenti. Vi ricordiamo anche che, sebbene la trasmissione sia in vacanza, restano attivi tutti i nostri canali social. Su Facebook ci trovate come Giovani Talenti Radio 24, su LinkedIn come Fuga dei Talenti. E ora, come anticipato, andiamo a riascoltare alcune delle migliori storie andate in onda nel corso del 2016. La prima ci riporta a Strasburgo. A maggio siamo andati fino al Parlamento Europeo per raccogliere le voci dei nostri under 40 che si stanno facendo onore in Europa. Sono Anita Quatrini, ho 33 anni, sono originaria di Viterbo. Ho lasciato l'Italia diverse volte, di quell'ultima nel 2013, per venire qui a Strasburgo a lavorare come assistente in una commissione di un'assemblea del Consiglio d'Europa, vale a dire il Congresso dei Poteri Locali e Regionali. Ciao, sono Pietro, ho 37 anni, sono italiano chiaramente. La mia prima esperienza all'estero è stata per un Erasmus a Pamplona nel 2003 e dal 2005 vivo a Bruxelles, in mezzo sono stato un anno in Inghilterra. Sono Lorenzo Repetti, ho 29 anni e mi sono trasferito a Bruxelles nel 2010 per fare l'assistente parlamentare e sono ancora assistente parlamentare. E allora iniziamo con una domanda generale rivolta a tutti e tre. Dovendo scegliere per vivere e lavorare una tra le due capitali europee, quale consigliate, la belga Bruxelles o l'alsaziana Strasburgo? Anita, tu a Strasburgo ci vivi? Io Strasburgo la adoro, è una città molto vivibile, con un'alta qualità della vita, molto bella anche, e nonostante non sia grande come Bruxelles, però è altrettanto vivace. Pietro? Io amo le città piccole a misura d'uomo, ma Strasburgo è veramente troppo piccola per me, quindi l'internazionale Bruxelles. Lorenzo? Anche io preferisco Bruxelles, molte più occasioni di incontro, di attività culturale, di cose. Bene, siamo partiti con i consigli, ognuno ha tifato per la sua città di residenza. Anita, iniziamo con le vostre storie. All'università scegli sociologia, perché? Sono interessata a fenomeni sociali e volevo con il mio lavoro contribuire a migliorare la società in cui viviamo. Pietro, nella tua carriera e nella tua storia vediamo riflessi gli imprevedibili percorsi che può prendere la vita. A differenza di Anita, tu ti iscrivi alla facoltà sbagliata, legge, poi un'esperienza all'estero ti cambia la vita e a farti deragliare è un Erasmus a Pamplona. Cos'è successo? A Pamplona essenzialmente il primo giorno di università mi sono accorto che c'era l'università a fianco che si chiama periodismo, che vuol dire giornalismo, e lì c'era fotoperiodismo, che è fotogiornalismo, e da sempre è stata la mia passione, quindi ho deragliato verso la fotografia. Lorenzo, tu per l'università ti sposti da Genova a Torino, scegli storia, perché una facoltà dall'impronta così umanistica? Perché ho sempre voluto e voglio ancora fare l'insegnante di storia e filosofia, quindi l'obiettivo era già chiaro. Anita e Lorenzo, avete fatto programmi Erasmus o di scambio universitario all'estero e se sì, quale valore aggiunto hanno portato alla vostra formazione, Anita? Sì, ho fatto l'Erasmus, la tesi all'estero e Leonardo e mi hanno fatto comprendere ancora di più l'importanza delle lingue, per cui per ogni lingua imparata ti si apre un nuovo mondo e mille possibilità in più, per cui sono partita con il mio francese scolastico e adesso mi ritrovo a parlare quattro lingue quasi. Non male. Lorenzo? Io ho fatto alcune esperienze di studio diciamo, verso la lingua inglese, ma non all'interno del percorso universitario. Ok, e allora chiedo a tutti voi un giudizio sulla qualità dell'istruzione universitaria in Italia. Che voto date ai nostri atenei da 1 a 10, anche e soprattutto nel collegamento col mondo del lavoro? Anita? Io farei due voti separati, 8 per la formazione, 2 per il collegamento col lavoro. Pietro? Io un 7, 7 meno meno direi. Lorenzo? Anche io, come Anita, darei un 7 e mezzo per quanto riguarda la formazione in generale, mentre un 5 per quanto riguarda il collegamento al mondo del lavoro. Anita, dopo la laurea specialistica mi sono lanciata allo sbaraglio in Italia alla ricerca di un lavoro. Ci scrivi. Perché? E la tua esperienza lo insegna, da noi le parole Italia, lavoro e sbaraglio finiscono troppo spesso per fare rima. Perché manca proprio un collegamento tra l'ateneo e l'universo lavorativo, per cui io mi sono ritrovata a cercare lavoro senza neanche avere gli strumenti adatti per farlo, non sapendo neanche da dove iniziare, procedendo insomma per tentativi. Pietro, tu hai fatto della tua passione la professione della vita. Dopo aver girato la Spagna in auto per un fotoreportage, decidi che quella è la tua strada. Ti laurei comunque in giurisprudenza, inizi anche la pratica forense, poi però dai una forte sterzata iscrivendoti a un corso di fotogiornalismo a Sheffield in Inghilterra e inizi la tua collaborazione con agenzie di stampa italiane. Eri un freelance. Quale mondo del lavoro hai sperimentato in Italia? In Italia ho iniziato a lavorare per giornali di settore e per un'agenzia molto grande. Purtroppo quello che è successo è che i giornali di settore pagano, le agenzie no, e quindi dopo un po' ho capito che l'Italia non faceva per me. Lorenzo, per te il passaggio dall'università alla vita lavorativa è stato più diretto. Come è avvenuto il tuo spostamento da Torino a Bruxelles? Deriva, diciamo, dalla passione politica che io, diciamo, praticavo in Italia e che quindi mi ha portato ad avere l'offerta di fare un'esperienza da assistente parlamentare. Quindi, avendo avuto questa possibilità, mi sono trasferito da Torino a Bruxelles. Torniamo ad Anita. Ho mandato centinaia di curriculum, vagliato 1000 possibilità. Quello che ho trovato sono state per lo più umilianti proposte di lavoro non retribuito, che quindi non si dovrebbe, qui condivido anch'io, neppure chiamare lavoro. Ci scrivi. Nel concreto, cosa ti sei vista proporre in Italia? Solamente degli stage non retribuiti, appunto, anche quando già avevo accumulato esperienza lavorativa lavorando al Consiglio d'Europa, da cui ho fatto infatti più andirivieni perché all'inizio avevo dei brevi contratti. Diciamo, è una realtà che ho riscontrato anche in Francia, con la differenza però che la Francia ha degli ammortizzatori sociali che permettono comunque di ricevere delle sovvenzioni dallo Stato per potersi mantenere. Pietro, la tua strada prende la direzione di Bruxelles. Alla fine, come sei approdato al Parlamento Europeo per lavorare come fotografo? L'Inghilterra mi aveva dato tanto, però non mi rappresentava come paese, quindi ho deciso che uno stage al Parlamento Europeo poteva essere un'unione tra la mia laurea in legge e il fotogiornalismo e quindi fotografie politiche. Lorenzo, invece, com'è stato il tuo impatto lavorativo e di vita anche a Bruxelles? È stato un impatto molto positivo. Per quanto riguarda, diciamo, l'impatto lavorativo, è stato un impatto molto di studio. Quindi primi mesi, primi anni, ma anche tuttora, ho dovuto studiare moltissimo, ma erano temi che mi appassionavano, mi interessavano, quindi l'ho fatto con grande piacere. Anita, Strasburgo alla fine si rivela la tua ancora di salvezza. Dopo vari andirivieni con in mezzo a un lavoro come ricercatrice con un contratto, annoti amaramente, di ben un anno a Milano, che poi non ti è stato rinnovato per mancanza di fondi, vieni assunta al Consiglio d'Europa. Ti colpisce la modalità semplice e lineare con cui questo avviene. Ancora più lineare si rivelerà la tua progressione di carriera qui. Come funziona all'estero, allora, riassumendo, e come dovrebbe funzionare in Italia? La mia carriera qua si è basata semplicemente sul curriculum e il lavoro. Facile. Molto semplice, sì. Io ho fatto una candidatura per uno stage che è stata selezionata al primo colpo e dopodiché mi è stato proposto un contratto dopo l'altro, ma l'unica cosa che io ho fatto è appunto stata lasciare il curriculum nella modalità che può essere utilizzata da tutti alle risorse umane e sono stata poi richiamata. Fosse così anche da noi. Pietro, anche il tuo percorso si dipana in ambito europeo, ma a Bruxelles attualmente qual è la tua posizione? Io sono funzionario europeo perché dopo 6 anni di grande studio sono riuscito a passare un concorso che è aperto a tutti, è pubblico, è trasparente, e ce l'ho fatta. Qui si dice a Bruxelles hai vinto la lotteria. Ho vinto la lotteria e adesso sono il photo editor del Parlamento Europeo e mi occupo della parte fotografica del sito internet 24 lingue e di tutti i social media. Lorenzo, invece, la tua attività avanza in parallelo, lavori come assistente parlamentare e studi per completare la laurea specialistica sempre in storia. Esattamente di cosa ti occupi a Bruxelles? Quello di cui mi occupo deriva molto poi dai temi che segue il mio parlamentare, quindi all'inizio ci siamo occupati, mi sono occupato soprattutto di immigrazione e lavoro, più recentemente di protezione dei consumatori, di corporate governance e di trasparenza fiscale.

Oggi sono più pragmatici, accettano la dimensione internazionale del mondo e del mondo del lavoro in cui loro operano. Quindi diciamo che è un atteggiamento più positivo. Le chiedo anche di ricordare brevemente cos'è Aspen Junior Fellows. È un gruppo di giovani, un'ottantina di giovani, 40% donne, 25% lavorano all'estero, che noi selezioniamo e che aiutiamo attraverso un confronto delle loro esperienze, delle loro idee, discutendo dei temi più importanti a livello nazionale e internazionale, aiutiamo a diventare i leaders del futuro. Insomma, è un percorso di formazione e di sviluppo delle loro capacità. Lucio Stanca, lo abbiamo ascoltato prima da Laura Toia, ha toccato il tema Brexit. Secondo lei può rappresentare la Brexit paradossalmente un'opportunità per l'Italia in termini di riattrazione dei nostri migliori talenti oltremanica? Vede insomma un paese pronto ad offrire loro qualcosa, perché altrimenti il rischio è che prendano altre strade. Premesso che Brexit non si sa quando, come, insomma è ancora molto da definire, certamente qualcuno dei giovani potrà anche pensare di lasciare il Regno Unito. L'Italia, ma non solo per la Brexit, lo sforzo che deve fare è cercare di attrarre i maggiori talenti da tutto il mondo, non solo dal Regno Unito, proprio perché oggi la competizione è sulla capacità di dare opportunità ai migliori, soprattutto ai giovani di grande potenzialità. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio internettivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche perché no, denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. La novità a partire da quest'anno è che cerchiamo non solamente storie di under 40 espatriati, come abbiamo sempre fatto, ma anche di under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, di under 40 stranieri al lavoro in Italia e di giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh, allora Giovani Talenti è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 per la prima puntata del nuovo format di Giovani Talenti. Un saluto e ancora un augurio di buon anno da Sergio Nava.